Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti. Bentornati a Magazine 24, puntata della domenica. Non speriamo, non in senso puntata in tono minore. Anzi, ci sono diverse cose interessanti che si possono segnalare sui magazine di questa settimana, di queste settimane, quando magari andiamo a esplorare anche il terreno dei mensili. Tanto per cominciare con un argomento un po' meno citato, meno celebrato dai magazine, vi voglio segnalare quello che è uscito con il magazine del Corriere della Sera 7, che naturalmente poi resta in edicola anche nei giorni successivi al giovedì, dalla parte dei maschi. Cioè, forse è il caso di cominciare a preoccuparsi un po' anche di noi maschietti. Abbiamo parlato molto, si parla molto sui magazine naturalmente delle donne, delle differenze di genere, delle pari opportunità, però qualcuno sta cominciando a preoccuparsi anche della formazione dei giovani e giovanissimi maschi. Non succede da noi, succede in Cina. Questo segnala Marco Del Corona su 7. Dice: sono viziati e coccolati dalla famiglia, a scuola ricevono un'educazione che è rivolta più alle femmine che a loro. Il risultato: una generazione di frustrati e senza carattere. Un professore lancia l'allarme sulla condizione dei bambini in Cina. Ripetiamo sempre che stiamo parlando della Cina, e suggerisce i rimedi. I rimedi sarebbero giocare a calcio, o comunque fare un'attività sportiva, poi in realtà si spiega nell'articolo, e avere padri più presenti per salvare sia loro sia il futuro del paese. Ma di cosa si tratta precisamente? Allora, il signore che dà origine all'articolo si chiama Sun Yung Xiao, è il vice direttore del centro di ricerca sulla gioventù e l'infanzia, quindi persona, diciamo, proprio autorità nella materia, e ha scritto un libro che ha significativamente intitolato Salvare i ragazzi. Perché? Perché è partito dalla considerazione che, a suo giudizio, i maschi cinesi siano inferiori alle femmine. Nell'esame per accedere all'università, per esempio, dal 99 al 2008, ha notato che la percentuale dei maschi che hanno ottenuto punteggi più alti è scesa da un confortante 66,2% a un 39,7%. Non sorprendentemente, verrebbe da dire, perché molto spesso leggiamo, ci capita di leggere, di sentire che le ragazze hanno punteggi migliori, hanno risultati scolastici migliori. Ma che cosa dice Sun Yung Xiao? Dice che la scuola cinese trascura le differenze, ha metodologie di insegnamento e criteri di valutazione che sono tendenzialmente femminili, e nelle famiglie i figli unici maschi sono poi trattati come fossero femmine, cioè coccolati e viziati. Questo è un disastro, in una parola. Questo libro, Salvare i ragazzi, sta avendo un grandissimo successo. Si riferisce di genitori che ne regalano copie ad altri genitori, presidi che ne regalano copie ai docenti, e critiche lusinghiere un po' su tutta la stampa cinese. La teoria di Sun, che sul tema, avvisa Marco Del Corona, studia dall'86, è questa: occorre che i genitori cinesi capiscano che i maschi maturano dopo le femmine, ed è lì, sui banchi dei primi anni, che cominciano a crescere le frustrazioni. I maschi poi feriti, spiega Sun, sviluppano in realtà in età adulta insofferenza verso lo studio, scarsa disciplina, aggressività, dipendenza da internet. Quindi bisogna cambiare tutto. Il sistema attuale è troppo modellato sulle caratteristiche delle ragazze, guarda capacità linguistiche, lettura, memoria, e questo anche perché in passato, come dice lo stesso professore, autore appunto di questo volume, erano le donne che sono state a lungo trascurate. Però in questo modo il riorientamento potrebbe avere dirottato troppo pesantemente, avrebbe portato l'ago della bilancia troppo pesantemente dalla parte appunto del femminile, con una perdita, una possibile perdita per la società. Questo almeno quanto si sostiene, per carità, in Cina. L'argomento è naturalmente molto spinoso, suscita subito polemiche, però è anche quello di cui si sta discutendo sui magazine di questa settimana. E allora, a proposito di abitudini che cambiano, che stanno cambiando, restando ancora un minuto davvero su 7 e la rubrica di Pietro Calabrese dice avanti verso il passato. Di cosa si occupa? Del fatto che è una questione molto domestica in realtà, tanto quanto l'altra era una questione cinese, questa è una questione italiana. Sempre più persone confessano che quando vanno da Milano a Roma e viceversa usano il treno e non l'aereo. Voi direte, non è una grandissima notizia. Il fatto è che effettivamente con la riduzione dei tempi e la comodità anche del viaggio, dell'arrivo, delle stazioni d'arrivo per il treno, l'aereo ha perso un po' l'appeal che sicuramente aveva avuto in altri anni, in cui abitualmente chi si trovava per lavoro a dover fare la spola molto o poco tra Milano e Roma preferiva muoversi in aereo. E così appunto, dice anche Pietro Calabrese, non è in realtà la paura di volare, che comunque ognuno di noi soffre più o meno dichiarata, è proprio la capacità che la locomotiva possiede di essere vicina al cuore dell'uomo. Quindi in questa preferenza non ci sarebbero solo ragioni di banale convenienza di tempo e di spazio, ma invece la capacità della locomotiva di ricordarci in qualche modo anche la nostra infanzia, dice Calabrese. Sono anche un po' i miei ricordi, viaggi in vagone letto che mi capitava di fare da ragazzo da Palermo a Roma. Quindi non solo una scelta. Oggi se devo andare a Milano, dice, prendo il treno, sopporto i maleducati che usano il cellulare come megafono, ma viaggio felice, leggendo i giornali come Dio comanda, riferimento alla comodità, appunto alla ampiezza dei sedili del treno. Magari un giorno tornerò a volare, ma prima molte cose devono cambiare, così scrive Pietro Calabrese. E per restare ai tempi moderni torniamo su 24. 24 ne abbiamo parlato ieri, il magazine mensile del Sole 24 Ore ci segnala una curiosa abitudine che invece viene questa volta dall'America. Anna Lagorio scrive che stanno cominciando le feste con lo sponsor. Non si intende le feste pubbliche, parliamo proprio di feste private. Spiega Anna Lagorio, l'economia è in rosso, ma le occasioni per festeggiare non mancano. Nascite, compleanni, diplomi, parti di addio al celibato, di pensionamento, ce n'è un po' per tutti i gusti. Allora, partendo da questa riflessione, una signora che si chiama Kitty Golding, è un'esperta di marketing americana, è riuscita a convincere delle aziende a fidarsi di lei e nel giro di 3 anni ha costruito un impero nel settore delle feste promozionali, cioè sono delle feste private ma con lo sponsor, e le aziende che vengono citate tra l'altro in questo articolo su 24 sono di tutto rispetto, si parla di Nestlé, Ford, Disney, Procter & Gamble, e dice, a differenza dei vecchi Tupperware party, i ricevimenti preparati da Kitty Golding sono progettati su misura. Lei ha un sito dove sono riportate decine di opportunità di divertimento suddivise per età, genere, azienda che può fare da sponsor. Così chi vuole organizzare una festa fra colleghi di lavoro potrebbe iscriversi a una Xbox House Party. L'azienda si occuperà di inviare un party kit, cioè un tutto il necessario, con tanto di giochi in anteprima, offerte, coupon, bibite, snack e così via. E in cambio gli ospiti forniranno commenti sul videogame e parleranno di questa esperienza su Facebook. Anche Microsoft, ad esempio, ha scelto un house party, una di queste feste, per aiutare il lancio internazionale di Windows 7. Il settore tecnologico poi è solo uno degli ambiti di intrattenimento, perché tra le categorie che Kitty Golding propone si scoprono eventi per amanti di giardinaggio, pesca subacquea, sapori esotici, quindi lì si può un po' trovare davvero di tutto secondo anche le proprie passioni, e naturalmente risparmiando, perché l'azienda coprirà le spese o gran parte delle spese che uno deve sostenere per la sua festa. Tutto questo su 24 accade per ora negli Stati Uniti, potrebbe accadere anche da noi. Così come penso accada da noi questa circostanza che viene segnalata da Newsweek questa settimana, cioè che è vero che il lusso in sé ha avuto dei problemi con la crisi e direte ci mancherebbe altro, ma forse non tutti sanno che ci sono delle aziende del lusso che sono addirittura cresciute, che hanno migliorato i loro fatturati, hanno migliorato i loro ricavi proprio nel periodo della crisi. E di tutto questo si occupa Newsweek, che addirittura ha dedicato poi la copertina al futuro del lusso. ricorso anche a questo aspetto, cioè alla capacità di tenuta dei beni di lusso, e quindi pensate a delle borsette di grande pregio, pensate a della valigeria di grande pregio, a delle automobili di grandissimo prestigio. Ecco, il lusso, insomma, in una parola, in realtà ha avuto delle aziende che sono cresciute, che hanno aumentato le vendite anche dell'8, del 9, del 10%. Questo viene raccontato partendo da New York, ma la tendenza, avvertono gli articolisti, è mondiale. Jonathan Tepperman, a cui è affidato il primo degli articoli di questo inserto, e dice: dovete pensare, spiega a un certo punto, spiega se stesso e anche a noi, Jonathan Tepperman, dovete pensare che una signora che prima, durante gli anni buoni, diciamo, poteva anche comprarsi 5 borsette molto costose, ora in realtà sceglie una sola borsetta, ma magari preferisce un bene che abbia la forza quasi di un investimento, e quindi una borsetta ancora più costosa delle singole 5, ma che sia in grado in qualche modo anche di durare nel tempo, che sia un valore destinato a durare nel tempo. E naturalmente non finisce qui, perché ci sono tutti i mercati che stanno emergendo, come la Cina, l'India e il Brasile, cioè paesi dove il consumo di beni di lusso è ancora ridotto, è ancora molto concentrato, ma che potrebbe rapidamente espandersi. Magazine 24. Bentornati e ancora buona domenica da Magazine 24. Stiamo dando una scorsa ai settimanali e ai periodici usciti in questi giorni. Notavamo nella puntata di ieri che c'è stato una grande attenzione alla tecnologia, non solo perché la tecnologia è il tema a cui è dedicato il numero di 24 in edicola in questi giorni col Sole 24 Ore, ma anche perché in effetti di tecnologia, di scienza, di diffusione della tecnologia si parla parecchio, un po' in tutti i settimanali mensili che abbiamo visto. Aveva cominciato, devo dire, con un po' di anticipo l'Economist, che già dalla settimana precedente aveva dedicato la sua copertina alla scienza e al cambiamento climatico. Ci sono state le polemiche sulla validità dei dati utilizzati per, appunto, sostenere il cambiamento climatico originato dall'uomo, ma nel suo editoriale l'Economist tagliava qualche giorno fa abbastanza corto dicendo: beh, sicuramente il pasticcio emerso al vertice di Copenaghen, con l'assenza di risultati del vertice, è una delle conseguenze della nostra disaffezione, delle nostre perplessità, però, avverte, l'azione, l'intervento per fare qualcosa per il clima è giustificata non perché la scienza ci fornisca delle certezze, ma proprio perché non ci fornisce ancora delle certezze. È ovvio che, avverte l'Economist, in una fase di crisi è molto più difficile affrontare nuovi sacrifici, magari anche introdurre nuove tasse proprio per difendere l'ambiente, ma tuttavia è anche il momento necessario, e ne abbiamo parlato tra l'altro più volte proprio leggendo dai settimanali, dai mensili, è anche il momento più felice per poter introdurre delle nuove modalità di produzione. Tutto questo ha funzionato quasi come se fosse un po' l'avvio di una serie di uscite di articoli dedicati proprio alla tecnologia. E non solo 24, anche Newton, parlavamo di Newton, che è questo mensile che è tornato in edicola, dedicato proprio alla scienza e alla tecnologia nella nostra vita. Ritorniamo su Newton perché ci sono due cose che vi voglio segnalare. L'una è diciamo più leggera e riguarda la vita e, come dire, le opere, verrebbe da dire, di un ingegnere magari poco conosciuto ai più, ma in effetti molto importante. Questo signore si chiamava Thomas Midgley Jr. e fu in realtà molto brillante, perché non solo nella sua vita riuscì a registrare oltre 100 brevetti, era un inventore molto prolifico, ma anche perché a lui si deve la soluzione di un problema molto noto negli anni 20. Spiega Jacopo Prisco su Newton: negli anni 20 i motori a benzina delle automobili soffrivano di un fastidioso problema, battevano in testa, quindi provocando un caratteristico rumore, causando avarie e bassa efficienza. Questo perché? Perché c'era un basso numero di ottani nei carburanti dell'epoca, la benzina si incendiava troppo presto e quindi Non attendeva esattamente lo scoccare della scintilla della candela. La General Motors chiese a questo signore, Thomas Migley Jr., di trovare un rimedio. Lui provò migliaia di sostanze, pare addirittura 30.000. E grazie, scrisse lui stesso, alla fortuna e alla religione, ma anche all'applicazione della scienza, notò che il piombo tetraetile era la sostanza migliore per evitare questo effetto. Venne quindi adottato come antidetonante e furono ignorate di fatto le voci che ne sottolineavano la pericolosità per l'ambiente e anche per l'uomo, anche per i lavoratori delle fabbriche che lo producevano. Il piombo, come sappiamo, interferisce con svariate funzioni metaboliche. È tossico per diversi organi, tanto poi che si arrivò, ma molto più tardi, nel 1986, a proibirlo negli Stati Uniti, nell'Unione Europea a sancirne il ritiro nel 98. Però il piombo tetraetile come additivo della benzina è ancora usato in diversi paesi. La storia però di Migley non finisce qui, perché dopo aver introdotto il piombo, che in realtà si sì, ha fatto fare dei passi avanti all'industria automobilistica, ma poi si è dovuto abbandonare per le troppe conseguenze connesse in termini di salute e di ambiente, Migley si è distinto anche per un altro problema a cui peraltro trovò soluzione, ma ironia della sorte, ancora una volta una soluzione che avrebbe creato altri problemi. Che cosa gli successe? Lui si preoccupò di sostituire i fluidi, i liquidi refrigeranti che vengono usati nei frigoriferi. Doveva trovare una sostanza che non fosse infiammabile e non tossica. All'epoca si usava ammoniaca, si usava anidride solforosa, tutta roba che non andava bene, era appunto tossica ed era infiammabile. Allora lui propose una sostanza dal nome abbastanza complesso, di cloro di fluoro metano, ma lui la ribattezzò familiarmente Freon. In pratica, in quel momento lì, questo signore Thomas Migley inventò i CFC, clorofluorocarburi, a cui poi abbiamo dedicato dagli anni 80 del secolo scorso in avanti grandi sforzi per riuscire invece a toglierli dalla produzione, perché ci siamo accorti che erano sospettati, pesantemente sospettati, di provocare il buco nell'ozono, nell'ozonosfera. Migley, peraltro, tutto questo non lo vide mai, perché purtroppo per lui si ammalò nel 1940, contrasse una poliomielite e quindi fu costretto anche a letto per appunto le conseguenze della malattia. Ancora una volta, però, essendo un inventore, cercò di costruire un sistema di cavi di puleggia per essere autosufficiente, per potersi alzare da solo, ma davvero la storia, se non avesse questa fine, sarebbe quasi ironica. Proprio per un'imperfetta progettazione del suo congegno che doveva sollevarlo dal letto, l'inventore stesso ne finì ucciso e quindi ebbe questa davvero vita molto curiosa, in cui mise a punto diverse invenzioni, tutte poi utilizzate, ma che tutte presentavano una serie di problemi non indifferenti, ripeto, soprattutto l'aggiunta del piombo nelle benzine e i primi clorofluorocarburi. E allora, dopo questa storia davvero divertente che ho tratto dalla penna di Jacopo Prisco, restiamo sulle pagine di Newton, passiamo a un contributo invece di Pietro Greco, che si occupa di un problema noto, ma con un taglio meno davvero consueto. Il problema della fuga dei cervelli, come viene giornalisticamente sintetizzato. Di cosa si tratta? Naturalmente tutti abbiamo sentito dire che il nostro paese non è in grado di attrarre, di trattenere i suoi migliori talenti, che spesso finiscono all'estero e che quindi non sono in grado di dare proprio all'Italia, insomma, le scoperte di cui invece avremmo bisogno, e finiscono per essere attratti da altri stati, gli Stati Uniti, ma non solo. In realtà, scrive Pietro Greco, qui il problema non sono questi laureati che scappano, sono i cervelli che non arrivano da noi, perché in un ambiente mondiale che è sempre più interconnesso, il problema non è tanto quello di trattenere chi si forma da noi, ma anche quello di attrarre chi eventualmente non si è formato o non è nato in Italia. Allora, innanzitutto bisogna capire, e Pietro Greco cerca di farlo nel suo articolo appunto su Newton, quanti sono esattamente i cervelli in fuga. Secondo uno studio del 2004 realizzato dal CNR dovrebbero essere ogni anno almeno 4.000. Secondo altri dati, nel complesso gli italiani con laurea o dottorato di ricerca che lavorano negli altri paesi OCSE, cioè economia più avanzata, sono nel complesso 395.000. Ora il problema è capire se sono molti o pochi, come si chiede lo stesso Greco, e dice nel 2000 lavoravano all'estero circa 300.000 italiani con un'alta qualificazione culturale, ovvero il 7% della popolazione laureata in Italia. In assoluto, avverte Greco, non erano molti, perché gli inglesi con un'educazione cosiddetta terziaria che lavoravano all'estero in quel medesimo periodo erano il 16,7% della popolazione laureata appunto nel Regno Unito. Quindi non è detto che ci sia proprio una diaspora così costante o così massiccia. Il problema vero, appunto, secondo Greco, è che c'è una scarsa capacità di attrazione. Sono troppo pochi i cervelli stranieri che vengono da noi. Si calcola che la popolazione non italiana immigrata in Italia con laurea fosse nel 2007 pari a 142.000 persone, fa il 2,3% dei laureati italiani. Solo 58.000 provengono dall'OCSE, dove invece lavorano appunto quasi 400.000 italiani con laurea. Non vengono insomma persone qualificate, non vengono poi giovani per qualificarsi. Abbiamo anche una percentuale molto bassa di studenti stranieri nelle università italiane. Quindi questo noto problema della fuga dei cervelli andrebbe in realtà riposizionato come incapacità di attrarre cervelli in Italia. Questo avverte Newton, e con questa segnalazione si conclude la nostra puntata di Magazine 24. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Ringrazio Peter Bescapè questa mattina in regia. Grazie anche a Margherita Ina e a Vittoria Mussini per l'aiuto nella preparazione di questo programma. Vi ricordo che potete riascoltare questo programma, così come tutti gli altri programmi di Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. Grazie a tutti, buona domenica e a risentirci sabato prossimo.